nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24, programma in cui parliamo di donne, di lavoro, parliamo anche di molte altre cose. Io vi racconterò per esempio quello che ho visto a Colonia, dove sono stata giovedì scorso, per vedere come simbolicamente nel giovedì grasso che la città dedica tradizionalmente alle donne si reagiva a un mese dalle disastrose esperienze che molte donne a Colonia hanno vissuto nel Capodanno scorso. E poi parleremo con ospiti di grande esperienza, un grande conduttore TV, esperti e però, voi lo sapete, uno dei punti fermi di questa trasmissione ogni volta che comincio è l'attacco che portiamo, un attacco convinto che portiamo al multitasking, che, lo sapete, secondo noi è una grande fregatura. Ma so anche che molte di voi non la pensano così. Per esempio non la pensa così Lucia Rizzi di Milano, che ci ha scritto: «Sono nata multitasking e ne sono felice. Dico di più, mi sentirei male se dovessi rinunciarci. Mi identifico con le bellissime parole di Umberto Saba, che disse: nulla riposa della vita come la vita. Il multitasking è negativo solo se visto come un'imposizione o come un percorso per essere perfetta. Comunque, dice Lucia, proprio perché sono multitasking riesco ad ascoltare con piacere la vostra trasmissione». E allora però, Lucia, tu che ci ascolti, ci sei? Eccoti. Sì, ci sono. Ho capito, essere multitasking, dice Umberto Saba, nulla riposa dalla vita come la vita. Sì. Ho capito, ma è una fatica bestiale. Agli uomini non viene richiesto di essere perfetti in cinque diversi settori. A me non me ne importa niente di quello che sono gli altri. Io trovo che ognuno di noi debba accettarsi per quello che è. Se io sono multitasking, mi va bene. Se io decido in quel momento, per quella determinata cosa, di non essere multitasking e di mettermi tranquilla col mio libro e non vedere lo sfacelo che gira intorno a me in casa, decido e accetto in quel momento di fare solo la persona comoda. Perché tu sei forte e riesci a importerlo. Tante di noi invece sentono la pressione per cui bisogna fare tutto e tutto bene. Perfetto, è lì proprio il punto dove io trovo un grande disordine in quello che in un certo senso non si insegna ma si trasmette alle nuove generazioni o tra di noi, alle donne e agli uomini. Invece bisogna proprio accettare, avere il coraggio di accettare quello che si è. Se io non sono capace di fare tante cose tutte in una volta, non le faccio. Se uno è un iperattivo come me, che i miei figli ogni tanto mi dicono: ma scusa mamma, ti ricordi quanti anni hai? E mi criticano perché ancora adesso io mi cerco le cose da fare, i lavori, in casa sono la classica tipa. Ecco, il punto è avere una gestione del proprio tempo. Tu, Lucia, ci sei riuscita, noi ti ringraziamo di essere sempre perfetta, attenzione, come capito? Tutte noi, come tutte noi, noi siamo ben contente delle nostre imperfezioni, quindi grazie Lucia per averci chiamato. Noi vi ricordiamo che come Lucia potete scrivere sempre a nessunaeperfetta@radio24.it. salutiamo Lucia e andiamo a vedere che cosa è successo a Colonia. Colonia, giovedì ero a Colonia proprio perché col Messaggero abbiamo lanciato l'hashtag Tutte a Colonia e ho visto con grande serenità, gioia, la piazza piena di giovani e meno giovani donne che avevano proprio l'aria di dire: ce la riprendiamo. Con loro c'erano molti uomini perché questa volta, come mi ha raccontato una delle ragazze con le quali ho parlato, questa volta gli uomini tedeschi, i fidanzati, gli amici eccetera, hanno voluto essere lì proprio perché l'altra volta, il 31 dicembre, quando ci sono state le violenze di massa, molti si sono chiesti: ma dov'erano gli uomini? E certamente c'erano anche un sacco di poliziotti, più di 2000 2000 poliziotti e più di 400 tribunali volanti allestiti proprio per giudicare in direttissima chi si fosse reso autore di reati. Purtroppo, si è saputo solo successivamente, una violenza c'è stata nella notte di Colonia. Un profugo afghano è stato arrestato per aver violentato, così sembra dalle prime ricostruzioni, poi vedremo i fatti nella loro completezza, per violentato una 22enne. Però appunto l'idea che c'era a Colonia era quella del riprendersi la piazza con il sorriso, ma anche con la certezza che nessuno poteva limitare il diritto delle donne, che tradizionalmente il giovedì grasso hanno le chiavi della città di Colonia, ma che comunque volevano lanciare un messaggio chiarissimo: queste piazze sono nostre, al di là di quello che è successo poi nella notte, e di come queste cose inevitabilmente purtroppo si ripeteranno. Parleremo anche più avanti nella puntata. È un po' la chiave di quel tutti a Colonia che avevamo lanciato con il messaggero, perché è inutile far finta che il problema non esista. Il problema dell'integrazione sta proprio nel rendere possibile la convivenza tra donne occidentali con uno stile di vita e delle sicurezze, dei diritti ormai acquisiti, e uomini che arrivano da culture completamente diverse e con una visione del ruolo della donna totalmente diversa. Non pensiamo che questo non si ripeta. Stavamo appunto parlando di Colonia, e mi piace che si cominci così con uno dei giornalisti più noti in Italia e uno dei conduttori di talk show politici più longevi, dopo Ballarò, ora di Martedì, e anche autore di romanzi. Il suo secondo si chiama La prima regola degli Sciardana. Buona domenica, Giovanni Floris. Buona domenica, Maria, grazie dell'invito, e buona domenica agli ascoltatori. Parlavamo di Colonia. Io ci sono stata perché sul Messaggero avevamo lanciato l'hashtag Tutte a Colonia, proprio per fare in modo che non si dimenticasse quello che era successo a Capodanno. Io vorrei chiederti, non ti ha stupito un po' il silenzio delle politiche italiane su questo? Come se non essendoci una linea enunciata dai capi maschi dei loro partiti, loro non sapessero bene che cosa dire, incerte su un argomento, per carità, che è una bomba, no? Quella dell'integrazione e dell'immigrazione. E però solo pochissime hanno parlato: Valeria Fedeli, Roberta Pinotti, Mara Carfagna, le altre silenzio di tomba. Non solo il tema dell'immigrazione, ma il tema del rapporto uomo-donna, il tema del confronto culturale, perché poi mi spiegava un nostro ospite, quando abbiamo parlato dei fatti di Colonia, mi spiegava, dice, guarda, i temi della questione femminile che comporta l'immigrazione sono tantissimi, dice lui, mi spiegava, pensa all'infibulazione dell'immigrazione dall'Africa, pensa al lavoro femminile dell'immigrazione asiatica. Sono tutti temi che scattano, il cui l'indignazione e l'impegno scatta quando servono a qualcos'altro, sono come dei temi di secondo livello per la nostra politica, no? Sono dei temi che servono a sollevare un caso magari legato al voto su un PDL, sì. Non sono temi importanti di per sé, purtroppo. E colpisce il silenzio delle parlamentari, delle donne. È un tema che viene sollevato strumentalmente, se serve qualcos'altro, persino dalle donne. Quindi quando non c'è un DDL da difendere, in pratica non c'è niente da dire, è così. C'è poco da dire, cioè viene considerata normalità, è un tema non importante nel momento in cui non serve a sollevarne un altro. Questa è una cosa drammaticamente grave. Sono proprio d'accordo col nostro agente provocatore di questa domenica, Giovanni Floris, che però mi provoca invece una ondata di nostalgia col suo secondo romanzo, La prima regola degli Sciardana, che è una storia di amicizia tra ex compagni di scuola, un giornalista, un imprenditore e un avvocato, che decidono di far rivivere una squadra di calcio locale per vincere la Coppa Sarda. C'è una nostalgia del gruppo giovanile che è un po' il fil rouge dei tuoi romanzi. Ti ringrazio perché vuol dire che li hai letti, e questa è una cosa bellissima per chi scrive un romanzo, sapere che qualcuno lo legge. Allora, sì, la linea, il confine di Bonetti era un gruppo di ragazzi che ricordano quello che gli era successo tanti anni fa. Questo è un gruppo di cinquantenni, tre amici, come dici tu, accompagnati da una bellissima ragazza sorella di uno di loro tre e aiutati dalla madre di uno di loro tre, quindi diciamo un matriarcato, visto che si tratta in Sardegna, attivissimo, li aiutano a costruire un'avventura particolarmente priva di significato in apparenza, cioè ricostruire una squadra di calcio di un paesino, ma che a loro fa rivivere quel gusto di tentare l'intentato, di andare fuori dai binari, di rischiare quello che hanno. È un tema che forse non è caro solo a me, forse è caro a chiunque si avvicina ai 50 anni e a chiunque si avvicina ai 50 anni ora che è cresciuto con film come quelli di Salvatores, che si è formato una sorta di ricordo di quando le cose si facevano, si rischiava, c'era tanta avventura, tanta voglia di ridere senza stare così attenti a tutto. Una sorta di rilassamento che viene preso pensando a come si era prima. In questo caso tento anche di far ridere, ecco, perché è una commedia. Che fa molto bene, ridere aiuta. Noi qui parliamo spesso di problemi di lavoro delle donne e anche dei giovani. Certo, appunto, 30 anni fa o 20 anni fa si guardava al futuro con più leggerezza, se lo potevamo permettere. E non era legato ai tempi di allora, era legato all'età che si ha. Io vedo nei miei nipoti, vedo negli amici dei miei nipoti e dei miei figli, anche se il più grande ha 12 anni, però insomma vedo che c'è quella luccicanza negli occhi che ti permette di tentare, di rischiare. No, poi piano piano, andando avanti, conosci il peso di ogni rischio. Quando non lo conoscevi era tutto più divertente. E infatti spezzarglielo, no? Non bisogna spezzarglielo mai, anzi, ma cercare di assorbirne il più possibile, cercare di ispirarsi. Queste tre persone, un imprenditore fallito, un avvocato di quelli che qua a Roma chiamiamo i parafangari, no? Quelli che campano di piccoli espedienti nei tamponamenti o nei colpi della frusta cercando di far piccole truffe alle assicurazioni, un giornalista di successo, tutti e tre. A tutti e tre manca qualcosa, cercano di risintonizzarsi con l'età che hanno attraverso un'avventura molto forte, molto rocambolesca, che un po' tira dentro tutti i personaggi anche che incontriamo nella vita. E mi piace che ci sia comunque anche una bella figura femminile, anzi due. Senti, sono due molto forti, quella madre di Raffaele l'imprenditore e quella che proprio mette, una che quando vanno alla cassa del paese la cassiera dice non fa caldo, lei dice sì fa caldo perché lo dico io, e la cassiera fa caldo. Fa caldo. Questo mi ricorda qualcuno, nel nostro piccolo mondo di giornalisti, non so se chi ci segue se ne sia interessato. Comunque in questi giorni si è molto parlato della polemica tra il tuo competitor Massimo Giannini che ti ha sostituito a Ballarò e un parlamentare del PD, Michele Alzaldi, che ne ha praticamente chiesto il licenziamento per una frase pronunciata. Ora, è possibile che nel fair play che contraddistingue sicuramente Giovanni Floris, tu suggerisca ho voglia di dire qualcosa da questi microfoni al tuo competitor Giannini? Beh, non c'è bisogno di usare questi microfoni, diciamo. Glielo dico molto volentieri di stare tranquillo dal mio punto di vista. Io penso che giornalismo e politica siano naturalmente dei competitor, in quel caso sì, perché il giornalista va a dare fastidio alla politica. È nel pacchetto che la politica usi i mezzi per intimidire. È nel pacchetto che il giornalista non si intimidisca, sarebbe nel pacchetto che l'azienda difendesse il giornalista, tutelandolo non tanto su botta ogni dichiarazione di un deputato, una risposta di qualcuno, secondo me creando un clima tale per cui il giornalista è sereno e può fare il proprio lavoro. È normale che la politica cerchi di incidere sui palinsesti, dovrebbe essere normale che l'azienda si difenda ai palinsesti, è assolutamente normale che il giornalista dica buoni, certo, qua sto lavorando, lasciatemi lavorare. Quindi quello che posso dire a Massimo, che è un ottimo giornalista, sta facendo un ottimo lavoro, è di stare tranquillo. Gli mandiamo non dico sereno perché no, suona no, male. No, che suona male. Comunque gli mandiamo i nostri saluti insieme ai tuoi. Grazie a Giovanni Floris. Ricordatevi che c'è in libreria un romanzo fresco fresco pubblicato da Feltrinelli, La prima regola degli Sciardana, ed è proprio scritto da Floris. Buona domenica Giovanni, grazie per buona essere stato con noi. Buona domenica e grazie tante Maria. Ciao, grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta ed è arrivato il momento della nostra Sunday Girl. Manca poco a Sanremo, che comincia il 9 febbraio, e quindi è con noi una cantante giovane, di successo, insomma Emma. Buona domenica Emma, benvenuta a Nessuna è Perfetta. Ciao. Buona domenica a tutti voi. Che cos'è Sanremo per te? Per me Sanremo è sempre stata un parco giochi, un parco divertimenti. L'ho sempre visto in maniera molto leggera e mi sono sempre divertita, quindi sì, è un posto bellissimo dove poter fare musica e tanto altro. Tu fai tanto di altro, a proposito, sei una cantante di successo, sei vocal coach in TV, hai lanciato una linea di abbigliamento, ti piace cucinare e pare che tu sia anche piuttosto brava. Hai detto anche che non ti dispiacerebbe fare l'attrice. Tu sei esattamente il concentrato della multitasking e noi siamo convinti che il multitasking sia una fregatura, non te ne sei ancora accorta? Ma da una parte sì, da una parte penso che, sai, meno fai, meno problemi hai. Però dall'altra sono una persona molto curiosa, lo sono sempre stata fin da bambina. Mi piace ficcare il naso ovunque e imparare le cose che magari, non lo so, ho sempre pensato di non riuscire a poter fare. Quindi mi piace cimentarmi in tante cose diverse, naturalmente con il massimo rispetto del lavoro. Beh, però per esempio quando sul palco proprio di Sanremo hai fatto la prova di qualcosa di diverso, cioè la valletta, sì. come ti sei trovata? Ben esplorare, ma era una cosa un po' diversa dalla tua assolutamente esperienza era una cosa di super cantante. Diversa L'ho fatto in maniera molto autoironica, conoscendo innanzitutto i miei limiti, perché ne ho tantissimi, e comunque bisogna prepararsi anche per fare le presentatrici o le vallette. Io però mi ci sono buttata, mi sono divertita, l'ho fatto senza falsare me stessa, ecco, quindi indipendentemente dal ruolo diverso io ero comunque me stessa su quel comunque palco, anche quello, se appunto in un ruolo diverso. Quello che dici, essere consapevoli dei propri limiti è un punto di forza, noi lo teorizziamo, questa trasmissione si chiama Nessuna è Perfetta e penso che sia proprio necessario partire da lì. Assolutamente. Io ho visto il video e il tuo nuovo singolo Io di te non ho paura e tu lanci un messaggio molto chiaro sulla violenza alle donne, quella psicologica e quella fisica. Abbiamo parlato molto e parleremo ancora molto per tutta la puntata di quanto è accaduto a Colonia. Ero a Colonia proprio perché con il Messaggero abbiamo lanciato un hashtag Tutte a Colonia e una proposta di essere virtualmente lì nel giorno del carnevale, il primo giorno tradizionalmente dedicato alle donne. E la giornata è stata magnifica, c'era gente per strada, allegria, c'erano 2000 poliziotti, ma ciò nonostante nella notte una violenza c'è stata e un giovane afghano profugo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una 22enne. Non se ne esce perché questo genere di cose continueranno finché non ci sarà una piena consapevolezza di chi arriva da altri mondi e da altre culture di quello che è lo stile di vita delle donne occidentali. È un discorso molto, molto ampio questo, secondo me anche molto delicato. Io credo che il fatto che le donne occidentali abbiano uno stile di vita molto aperto e si vestono in maniera un po' più emancipata non significa che sia il passepartout per dare il via a una violenza. Incolpare le donne di incitare alla violenza credo che sia veramente da bigotti, perché se io esco la sera e per una volta metto un abitino corto o con un tacco non significa che sono una persona libera e che di me si può fare quello che si vuole. Poi credo che comunque il fatto che gli uomini provochino queste cose bruttissime non dipende neanche dal fatto dalla loro nazionalità, nel senso tanti italiani violentano tante donne italiane e non, quindi bisogna un po' uscire fuori da questo schema, da questa mentalità e portare, secondo me, nelle scuole soprattutto dove ci sono ancora i bambini piccoli e i giovani, che ne so, quella materia che c'era nella mia epoca, tipo educazione civica. Certo. Fatta, non lo so, ricominciare a parlare di questo, non lasciare che il sesso sia un tabù, perché più se ne parla, secondo me, forse meglio è. Bisogna educare le persone. Infatti, ecco. Ci ha un po' sorpreso, no? Che sia in Germania che anche in Italia le donne in politica abbiano mostrato un certo imbarazzo nel dire che cosa pensavano dopo i fatti del Capodanno di Colonia, dopo le molestie di massa che erano state diciamo compiute contro donne in piazza a Colonia. E questo imbarazzo, questo silenzio, questo modo di dire vabbè, mi tengo al riparo, non prendo posizione, poi si vedrà, è una cosa diciamo un po' vigliacca, no? Non trovi? Guarda, io non lo so, non sono nelle loro situazioni, nella loro condizione, quindi non saprei dire. Io purtroppo, per fortuna, sono una donna senza filtri, quindi quando devo dire quello che penso lo dico a prescindere dalla posizione in cui mi trovo, però ognuno ha il suo modo di vedere le cose, no? Certo. Vivere, di reagire. Certo, e poi però ne risponde. Io sono per parlarne, infatti. Bisogna parlarne sempre. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Senti Emma, mentre appunto tu sei impegnata su tutti i terreni che ho elencato prima, come cantante di successo, come autrice anzi vocal coach televisiva, eccetera, c'è l'altro aspetto che tanti tuoi coetanei purtroppo sperimentano, invece, di non avere un lavoro. È un tema che approfondiremo anche più avanti con i nostri esperti. Se tu non fossi la cantante di successo che sei, se non avessi avuto la fortuna di veder riconosciuto il tuo talento, come sarebbe andata secondo te? Non lo so, sinceramente, che avresti come fatto? Sarebbe andata. Non lo so, dipende da tanti fattori. Posso dire che per quanto ci siano persone che non abbiano voglia di lavorare, ce ne sono tante altre che invece lo vorrebbero fare anche tanto. Ed è inutile negare che o nascondere il fatto che al Sud Italia è difficile trovare un posto di lavoro. Tu di dove sei? Io sono del Sud Italia, vengo da lì, vengo da un paesino in provincia di Lecce, e le posso assicurare che prima che mi succedesse tutto questo di lavori ne ho fatti tanti, però era difficile mantenere, si veniva licenziati perché magari non si potevano più pagare gli stipendi, cioè non è facile, non è vero che al sud che siamo tutti uguali, non è vero, al sud è molto più difficile oggi come oggi trovare un lavoro, la crisi la si sente molto di più al sud rispetto al centro Italia o al nord, quindi non lo so sinceramente quello che avrei fatto, mi sarei arrabattata come fanno tanti altri miei amici che tuttora magari hanno anche delle famiglie da mantenere e pur di portare il pane a casa lavorano in condizioni a volte non proprio che li tutela, insomma, a livello legale. Quindi... Ecco, però Emma Marrone non li ha rimossi, mi pare che tu come dire, abbia sempre contatti con i tuoi amici di prima. I miei amici storici sono sempre qui, sono sempre loro, io... quando torno a casa è come se li avessi lasciati il giorno prima, non sono una persona che ha cambiato vita, che quindi ha cambiato numero di telefono ed è sparita dalla vita degli altri, assolutamente no. Bene, non sparire nemmeno da nessuna è perfetta, noi ti aspettiamo qui quando vuoi e una prossima domenica spero che tornerai come nostra Sunday Girl. Allora, volentieri. In bocca al lupo, io di te non ho paura, è il nuovo singolo e virtualmente lo dedichiamo a delle ragazze che erano a Colonia e anche a tutti i ragazzi che c'erano ieri. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E questo è il momento, lo sapete, della lettera della settimana. Sapete che potete inviarci mail e chiederci consiglio sui vostri problemi professionali. L'indirizzo è nessunaeperfetta@radio24.it. Potete scriverci anche su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta o sulla nostra pagina Facebook. La lettera di questa domenica arriva da Marzia. Sono responsabile delle risorse umane di una grande multinazionale attiva nel campo delle nuove tecnologie. Approfitto di questo spazio per uno sfogo personale. Sento sempre dire che i poveri ragazzi oggi non trovano lavoro. Beh, dopo aver sfogliato qualche centinaia di curricula per individuare una risorsa da inserire in azienda, vorrei dire la mia. Il problema, semmai, è riuscire a trovare profili idonei e completi. Oggi i ragazzi accumulano anni di studio, ma mancano di specializzazione, restano troppo tempo in panchina e conoscono tardi il mondo del lavoro. Il sapere teorico non è quello che serve sul campo. O mi sbaglio? Marzia. Vi presento subito gli esperti che oggi mi aiuteranno a rispondere alla nostra ascoltatrice. Sono Patrizia Ravaioli, amministratore dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana. Buona domenica, Patrizia. Buona domenica a tutti voi. E il professor Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buona domenica, professor Rosina. Buona domenica. Comincio da lei. La rivista Time ha definito i ragazzi nati negli anni Ottanta overeducated, underemployed, wildly optimistic, cioè super istruiti, sottoimpiegati e selvaggiamente ottimisti. Concorda con questa definizione? Assolutamente sì, questo è il profilo che emerge da varie ricerche internazionali sui millennials ed è confermato anche dalle nostre ricerche sulla realtà italiana. La ricerca principale è il rapporto giovane dell'Istituto Toniolo, che evidenzia proprio come ci sia questo atteggiamento dei giovani come ragazzi con alta fiducia nelle proprie possibilità, nonostante si confrontino con una realtà che è molto al di sotto della capacità di realizzare appieno i propri progetti professionali o di vita, ma che crede molto nella voglia di mettersi in gioco e di produrre risultati, ma che poi appunto si confronta con una rendita del proprio investimento anche formativo che è molto bassa. E soprattutto questo è ancora più vero in Italia. Noi abbiamo una percentuale di laureati che è più bassa rispetto ad altri paesi, nonostante sia in crescita, ma abbiamo paradossalmente anche un tasso di occupazione dei laureati a 3 anni da quando hanno preso il loro titolo che è di oltre 25 punti percentuali più bassi della media europea, che vuol dire che noi sulla incapacità di valorizzare il capitale umano siamo i migliori. Sulla incapacità o sulla capacità? Incapacità di valorizzare lo specifico capitale umano delle nuove generazioni. Noi non li sappiamo valorizzare. Non li sappiamo valorizzare. Esatto. Ecco, Patrizia Ravaioli, dal punto di vista di una manager che lavora su un fronte molto molto particolare come quello della Croce Rossa, ti chiederei di dare una risposta alla nostra ascoltatrice che è un'imprenditrice che vorrebbe dare una mano a questi giovani che mandano spesso senza successo dei curricula e la nostra ascoltatrice dice: questi ragazzi non fanno che accumulare anni di studio ma conoscono tardi il mondo del lavoro. Risulta anche a te? Dunque, però non tutti, cioè è vero che per la struttura del nostro sistema universitario, anche se poi dopo è stato ristrutturato e poi dopo dell'accesso al mondo del lavoro, per quanto si sia fatto anche recentemente con le nuove normative, si arriva troppo tardi in Italia al mondo del lavoro. Allora, secondo me ci sono due strade per coinvolgerli prima. Una è quella che è consente di coinvolgere nelle aziende con per esempio gli stage, con progetti speciali che consentono comunque di venire a contatto con una realtà imprenditoriale, aziendale o comunque una realtà del lavoro a 360 gradi. L'altra, che è molto più vicina a me, al mondo del volontariato, al mondo di Croce Rossa, è quella di percorrere una strada di volontariato che avvicina comunque alla realtà di persone che stanno comunque male, persone che hanno bisogno di aiuto, persone che hanno delle vulnerabilità e ti mettono a contatto con una particolare faccia del mondo del lavoro, ma che comunque può essere veramente molto utile. Questo però può avere come dire, successo soltanto se noi riusciamo a migliorare la nostra capacità di coinvolgimento, quindi dico di noi come associazione di volontariato, ma anche dell'imprenditrice che sta facendo la domanda, di coinvolgimento a partire dal fatto che si valorizzino nell'ambito di questi coinvolgimenti le specificità dei giovani. Faccio un esempio molto banale ma che illumina da questo punto di vista. Molto spesso ci sono ragazzi che io poi ho seguito, perché ecco, l'altra cosa è fare un'attività di mentoring, per esempio con Valore D. Io sto portando avanti un'attività di mentoring che ha un diciamo così, dal punto di vista dell'impegno individuale per me è bassissimo, ma del risultato che io ho in termini di ritorno è enorme, e quindi noi possiamo fare con pochissimo impegno tantissimo per dei ragazzi, per coinvolgere e migliorare nel mondo del lavoro. Allora, in questo senso dicevo, però vanno valorizzati in quelle che sono le loro capacità, competenze, nei loro profili più profondi e nelle loro passioni. Se invece si fanno gli stage per i ragazzi per fargli fare le famose fotocopie, va bene, i ragazzi devono capire che si fanno anche le fotocopie, non è che si arriva nel mondo del lavoro e si fa gli amministratori delegati, però bisogna anche capire qual è la specificità di quel ragazzo, la competenza di quel ragazzo. Se no sentono di perdere tempo. A proposito di perdere tempo, professor Rosina, lei ha dedicato un libro a una vasta, diciamo, fascia di ragazzi che il loro tempo lo stanno perdendo, spesso magari anche perché non si rendono conto di questo. Sono i cosiddetti NEET, no? Not in Education, Employment or Training. Non studiano e non lavorano. E è un numero, diciamo, significativo in Italia? No, è un numero spropositato, abnorme. Sono 2,4 milioni gli under 30 italiani nella condizione di NEET. È come avere una decima come grandezza regione italiana fatta tutta di giovani che non studiano e non lavorano, cioè che una volta finito il percorso formativo entrano in questo labirinto dal quale poi con difficoltà riescono a trovare una efficace e soddisfacente via d'uscita, e quindi in qualche modo si perdono lì dentro. È un po' colpa delle famiglie che continuano a mantenerli senza che questi lavorino? Diciamo che, come racconto nel libro, i fattori, le concause sono varie. C'è un aspetto anche culturale legato alle famiglie. È vero che questa iperprotezione dei genitori non fa bene ai giovani, perché li rende un po' meno intraprendenti, un po' meno dinamici, ed è vero che tendono a maturare un po' più tardi rispetto ai coetanei degli altri paesi. Questo un po' per responsabilità della famiglia, cioè negli altri paesi un giovane già a 16-17 anni pensa in maniera progettuale al proprio futuro e concretamente quali sono i propri obiettivi, cosa può realizzare, quali strumenti può avere a disposizione per raggiungerli, come fare con le proprie gambe a iniziare un percorso e dove lo può portare questo percorso. In Italia questo avviene molto più avanti, cioè si dà per scontato che fino ai 25 anni o fino a che non ci si laurea si può vivere spensierati. E poi il giorno dopo che si è festeggiata la laurea si dice, beh, adesso cosa faccio? Dove adesso vado? Spesso si fanno 2 mesi di viaggio perché si devono riprendere dalla fatica della tesi. Ecco, quindi vale esattamente quello che dicevate anche prima, cioè noi abbiamo bisogno di anche una scuola, oltre all'atteggiamento dei genitori, noi abbiamo trovato una relazione stretta tra padre che o è assente, si disinteressa, o è iperprotettivo nei confronti dei figli. Entrambi questi due aspetti sono collegati al rischio di diventare NEET e di essere meno intraprendenti poi nel proprio percorso di vita. Mentre dovremmo avere una famiglia che sia non tanto rifugio dal mondo, non tanto gabbia dorata, ma in grado appunto di essere un trampolino di lancio, una voglia appunto di aprirsi, di avventurarsi, di dimostrare prima di tutto a se stessi quanto si vale. L'altro aspetto è quello della scuola. Noi abbiamo un sistema formativo che tradizionalmente è molto più basato sulle conoscenze che sulle competenze. Noi abbiamo sempre ragionato in termini di successo scolastico e non abbiamo mai riflettuto che cosa intendiamo invece per successo formativo. Cioè, perché si studia anche per ottenere poi una gratificazione lavorativa, anche perché lavorare bisogna e quindi... Esatto, e quindi è importante che ci sia l'inter potenziare il work-based learning all'interno dei percorsi professionali. Ne parliamo proprio in questa puntata citando l'esempio virtuoso, no, di Asso Lombarda, che in collaborazione con gli istituti tecnici e anche con qualche liceo lombardo ha fatto proprio questa unione di interessi. Prima di lasciarvi però vorrei coinvolgervi su quello che è stato l'inizio di questa puntata. Io sono stata a Colonia, un po' sull'onda della proposta lanciata sul Messaggero Tutte a Colonia, e sono andata a vedere com'è stato questo giorno simbolico del Carnevale delle Donne a distanza di poco più di un mese da quanto era accaduto. La domanda è prima al professor Rosina e poi a Patrizia Ravaioli. Noi parliamo di giovani, parliamo di formazione, ma dobbiamo tenere conto anche di questa immissione di giovani che provengono da nuove realtà, da differenti culture, da differenti religioni. Che cosa pensate sia rimasto del Capodanno di Colonia nella memoria dei giovani con i quali siete a contatto, o delle persone con le quali siete a contatto? Professor Rosina e Patrizia Ravaioli. Sì, i millennials sono una generazione che tra le varie caratteristiche è anche quella della diversità, perché appunto crescono in un contesto in cui le opportunità non solo maschili e femminili possono essere potenzialmente espresse, perché appunto si confrontano all'interno delle classi con coetanei di etnia diversa, di percorsi diversi, di formazione diversa, sono abituati a viaggiare nel mondo, pensano al mondo senza confini, e sicuramente Colonia e l'impatto, gli aspetti meno controllati, meno gestibili e più negativi del processo di immigrazione stanno mettendo un po' in crisi, ecco, questa voglia comunque di confronto tra culture e di aperture. Hanno bisogno quindi di concettualizzare meglio la loro capacità di stare nel mondo e di confrontarsi con gli altri, e questo per andare in questa direzione noi dobbiamo aiutare a formare meglio le competenze interculturali e aiutarli all'interno proprio delle classi e fare diventare un valore aggiunto alla loro capacità di confrontarsi costruttivamente e positivamente tra diversità e tra culture. Patrizia Ravaioli, sì, quello che dice il professor Rosina è stato oggetto di molti dibattiti in questi giorni. Bisogna, così come è necessario che gli immigrati nel luogo di approdo, insomma, imparino la lingua del paese che li ospita, così è importante che imparino la grammatica culturale, le regole e lo stile di vita ai quali devono nei quali devono inserirsi. Però è un programma di lunga lena, e nel frattempo che si fa? Bisogna lavorare tutti i giorni. Consentimi di dirti, Maria, grazie però prima di tutto da donna di essere andata a Colonia e di aver lanciato la campagna col tuo fortunato hashtag Tutta a Colonia, perché hai fatto in modo che tutti seguissero con grandissima attenzione questo tema, e quindi sei una delle persone più impegnate in questo senso, quindi consentino questo a parte veramente come donna. Poi invece, rispondendo alla tua domanda pienamente, si possono fare tante cose. Allora, dal mio osservatorio come Croce Rossa e Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, noi da molti anni stiamo lavorando anche insieme a UNHCR per lavorare su programmi sulla gender-based violence in disasters in generale, e quindi ci sono programmi enormi che insomma richiederebbero un lungo approfondimento. Nello specifico mi fa piacere lasciarvi con un esempio concreto che noi portiamo avanti come Croce Rossa Italiana, sia in termini di formazione nelle scuole, di questo ne avete già parlato prima, ma è vero che è di lungo respiro, ma è anche anche di breve periodo, perché quando noi andiamo nelle scuole, i nostri giovani, perché sono giovani che parlano coi giovani, i volontari della Croce Rossa, quindi ci sono dei volontari impegnati a far riflettere su quello che sta succedendo oggigiorno in Croce Rossa, e da questo punto di vista il risultato è immediato. Dall'altra parte noi abbiamo avuto esperienze, ripeto, come Croce Rossa, di per esempio mediatori culturali, che sono ragazzi che sono sbarcati in Sicilia, che sono stati seguiti dai volontari di Croce Rossa, che poi sono stati accolti dai volontari di Croce Rossa, hanno fatto il corso per diventare loro stessi volontari di Croce Rossa e ora fanno i mediatori culturali. Ecco che c'è il passaggio dall'accoglienza all'integrazione all'inclusione vera e propria. È utile parlare di questo, è utile parlare di questo, perché spesso non si sa e quindi ci si sente un po' sopraffatti, no, da quello che accade. E invece la via di comunicare quelli che sono gli stili di vita, le regole di un paese, passa appunto attraverso anche la mediazione culturale di cui ci diceva Patrizia Ravaioli. Io ringrazio lei, ringrazio il professor Alessandro Rosina per essere stati con noi questa domenica, e un saluto a entrambi. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati all'ultima parte di Nessuna è perfetta. È il momento dei consigli pratici della nostra coach. Questa domenica è Maria Serena Ciambellotti, bentornata. Grazie Maria, ciao a tutti. Allora, Marzia, che si occupa di risorse umane per una grande azienda, scrive: guardate che io ricevo tanti curricula pieni di belle cose che i ragazzi hanno studiato, ma esperienze vere sul mondo del lavoro non ce n'è. Domanda, è anche normale, perché se uno non comincia con uno stage non ce l'avrà mai l'esperienza del lavoro. Quindi cos'è il gatto che si morde la coda? Cosa rispondiamo al responsabile di risorse umane che sembra alzare le braccia e dire: guardate che il problema è non a valle ma a monte? Indubbiamente, in un momento di mercato del lavoro così difficile, soprattutto per chi è giovane e ha poca esperienza, potersi proporre alla fine di un iter di studio con un'esperienza, con attività lavorative concrete, non è facile. Quello che vale la pena valorizzare, e quindi questo ai giovani da un lato e a chi si occupa di risorse umane dell'altro. Oggi parliamo non tanto a chi ci ascolta, ai ventenni, perché ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, ma parliamo a chi nelle aziende guarda con sospetto a un curriculum che non ha esperienze professionali ma soltanto teoria. La mia domanda è: certo, ma se non gliele dai te le esperienze professionali, questi come fanno a farsela? Avranno sempre solo teoria. La possibilità è di, in sede di colloquio, quindi convocare quelli che sono i profili più vicini a quello che è comunque la posizione aperta in azienda, e utilizzare nella sede del colloquio quelle che sono un po' le domande tipiche delle tecniche di coaching, no? Le domande attivanti, ad esempio, quelle domande aperte che portano a riflettere su di sé e che quindi consentono al selezionatore. Gli esempi possono essere: che cosa hai imparato di te durante questi 2 anni di master, se una persona che ha fatto un master, oppure... Ma se è una persona che ha fatto l'istituto tecnico, quali non parliamo risorse, sempre ai laureati, ai ragazzi di 18 anni. Quale risorse hai messo in campo per raggiungere questo obiettivo? Attraverso questa materia che cosa hai capito di te? E quindi per comprendere, dal punto di vista di chi quindi sta conducendo la selezione, il processo mentale della persona stimolata in un momento di auto-osservazione. Domanda da $1 milione. Io faccio la direttrice, la responsabile delle risorse umane. Ho davanti a me uno studente appena diplomato di un istituto tecnico specializzato, che non ha mai lavorato, ma che sembra appassionato alle cose che ha studiato. per capire se funziona nell'azienda per la quale io lavoro, non avendo fatto esperienze professionali, c'è un trucco, ci sono, come dire, delle cose specifiche che possono indirizzare in questo senso? Lo chiedo pensando che chi ci ascolta magari può fare proprio questi trucchi e quando si presenta a un colloquio di lavoro essere già preparato. Ad esempio fare domande su che tipo di esperienze anche nel campo dello sport o nel campo del sociale, nel volontariato la persona ha fatto, per comprendere quali tipo di soft skills, quindi che capacità di comunicare, che capacità di mettersi in gioco, che capacità di fare squadra, che capacità di interagire con una popolazione estremamente eterogenea, anche diversificata, no? Per età, per razza, per background culturale. Questo mi dà la possibilità di comprendere se una persona pur giovane e pur fresco, quindi di studi e senza esperienza professionale, ha quella predisposizione, quelle competenze soft che sono importanti perché possa inserirsi con successo in un'azienda e in un team. Quindi normalmente cos'è che fa una buona impressione, come dicevano le nonne, in un colloquio di lavoro quando appunto non si è fatto il master, si arriva lì da diplomati? Anche ad esempio la autenticità nell'esprimere i propri timori, i propri dubbi, la propria voglia di imparare e quindi disponibilità, flessibilità in termini di orari e la chiarezza di intendimenti su quello che è l'obiettivo. Quindi io mi propongo per questa posizione perché intendo acquisire questa competenza, quindi mi dà la misura di quanto la persona abbia in mente un suo percorso. Bene, io ringrazio Maria Serena Ciambellotti e invito lei e tutti voi che ci ascoltate a tenere d'occhio il dibattito che ci sarà proprio a Milano il 22 febbraio, organizzato da Asso Lombarda e in collaborazione con molti istituti tecnici della Lombardia. Ci sarà anche il ministro dell'istruzione Giannini. Perché? Perché in Lombardia questo processo virtuoso di mettere insieme aziende e studenti dei licei, soprattutto degli istituti tecnici, è stato già avviato. E come si diceva prima, non per semplicemente far guardare agli studenti com'è un'azienda, no? Il classico stage in cui ti mettono a fare le fotocopie come si faceva 10 anni fa, ma per farli proprio lavorare, perché se tu hai una scansione del tempo scandita dai ritmi del lavoro, poi quando torni a scuola apprezzi di più quella fase, diciamo, di libertà che l'essere studenti ovviamente ti offre. Grazie a Maria Serena Ciambellotti e grazie a voi che ci avete seguito anche questa domenica. Nessuna è perfetta, è sempre in contatto con voi, basta scriverci a nessunaeperfetta@radio24.it o commentare con noi su Twitter usando l'hashtag nessuna è perfetta. Buona domenica e niente multitasking, per favore.